luce inondano il tramonto che riverbera in alto sopra rosse nuvole. L'alone di nebbia si allontana verso l'est, mentre scintille di luna danzano. Svegliati.